sta per iniziare Mini Pimer, la maxi trasmissione, un alfabeto tutto per noi, direi un alfabeta dalla A alla Z, tutte le donne, le artiste, le femministe, insomma le lesbiche che ci hanno ispirato. È il pezzo di una trasmissione che è andata in onda nella nostra 24 ore dell'8 marzo, che facevamo io che vi sto parlando e Leila che è qui di fronte a me. Ciao. Posso salutare? Certo che puoi salutare. Ben trovate all'ascolto tutte quante grandi e piccine. Mi raccomando, ascoltate bene. Ora, noi quando abbiamo fatto questo alfabeto l'8 marzo siamo rimaste un po' a metà, un po' perché le lettere sono tante, un po' perché tutte le artiste, le donne, le scrittrici, le poetesse che ci hanno ispirato sono altrettanto tante. Adesso avevamo questo dubbio amletico se ricominciare o no da là, ma non lo faremo. No, possiamo forse citare qualcuna e intanto rilanciare l'incognita, perché la lettera X è attualmente ancora vuota, e quindi se non volete che spariamo così la prima cacchiata che ci venga in mente, potete chiamare lo 06 49 17 50, è sempre questo il numero della radio. Certo che è sempre questo. E suggerire una personaggia che vi ispira così mentre preparate la cena, mentre guidate, non lo so, qualsiasi cosa voi stiate facendo, se vi va chiamateci. Esatto. E vogliamo fare un riassunto? Dai, fai un... Io faccio? Sì, ce l'hai in mano. Mica mi ricordo, sa? Allora, ce l'ho in mano, sì, però poi abbiamo pure un po' sforato da questi appunti, largamente sforato. Vabbè, comunque, siamo partiti con Anna Magnani, che è un'attrice... era un'attrice, vabbè, inutile che la presenti. Abbiamo fatto sentire un pezzetto dal film Della città all'inferno con Giulietta Masina mentre si preparavano un caffè in carcere, ma non avevano il fornello. Poi abbiamo fatto sentire un pezzo di Anania Giulia, sempre per la A, la nostra beniamina ormai. Sì, proprio sì, l'abbiamo mandato pure prima. Siamo fans sfegatate. Poi abbiamo letto una poesia di Alda Merini. L'abbiamo letta, forse volevamo leggerla, ma non l'abbiamo fatto in tempo. Poi abbiamo fatto sentire il soliloquio dei Minoucchi di Concetta Barra, poi abbiamo parlato di Louise Brooks, di Bebe Donge, di Patrizia Cavalli, di Claude Cahun, di Christa Wolf. No, abbiamo già parlato di Patrizia. Vabbè, la possiamo pure replicare alla P se vuoi, tanto perché ci piace. Allora, Cavalli, il cognome, sì, era lì, nei miei appunti era lì, però possiamo pure replicare la P, ancora non ci siamo arrivate. Poi abbiamo parlato di Angela Davis, di Anni Di Franco, di Eddie Brickell, di Ferri Gabriella, abbiamo fatto sentire Tutte al mare, Sceso ormai la sera, Giulia Nania la cantava. Ah, è vero, c'è ragione. La memoria. Una bellissima cover di Giulia Nania, molto bella. E Gabriella Ferri invece abbiamo sentito Sette par de scarpe e Vado scarso, che è quella che dice tutti al mare. Non ve la canto perché meglio di no. Io meno che meno. E poi abbiamo parlato di Franca Valeri, delle Guerrilla Girls. Di Gioconda Belli, dall'Università di Re Bibbia abbiamo letto alcune pagine. Vero. E mi pare che arrivammo qui, sì, alla più G. O meno alla G, insomma. Io ho questo segno qua, non so se è vero o meno, perché sì, poi vero. Ci siamo pure un po' così. Tra l'altro, di Gioconda Belli l'altro giorno rileggevo dei pezzi del libro suo, in realtà, che poi è la sua autobiografia, Il paese sotto pelle, dove c'è una frase che a me piace tantissimo, che dice che ogni geografia umana ha i suoi precipizi. Wow. Di quelle cose che io mi ricordo, che mi piace citare spesso e volentieri. Sei in un precipizio? Sei caduta in un precipizio? Speriamo di no, sono sull'orlo, diciamo. Vabbè, comunque, tutti noi un'altra siamo, persona tutti non altrettanto meno. Famosa, infatti non la dico neanche chi è, non me lo ricordo in realtà. Quando poi si tocca il fondo, poi si risale sempre. Ma quindi certo, va bene così, vive i precipizi. Esatto. Margherita Hack, la vogliamo nominare? La tenera, carina. Margherita è assolutamente un personaggio notevole nella storia, sì, anche italiana in generale, comunque della scienza, e considerando che le scienziate come al solito sono sempre molto poco considerate, ci piaceva sicuramente nominare nella nostra alfabeto delle donne che ci ispirano, ci hanno ispirato, una compagna, poi, perché poi Margherita Hack, sì, è una grande compagna. A me mi ispira tante coccole Margherita Hack, non so perché, però mi piace proprio. Assolutamente, assolutamente. E era bello, forse c'era tutto un pezzo sulle Guerilla Girls, che per chi non le conoscesse, ma dubito che le nostre ascoltatrici non le conoscano, era magari carino. Possiamo rilanciare il loro appello. Sì, perché c'era un appello fantastico. C'era un appello molto carino. Vabbè, loro sono un gruppo di attiviste, penso, insomma, non solo artiste, insomma, oddio, mi sono impicciata coi fogli, comunque vabbè. Allora hanno lanciato questo appello, che poi si trova su www.guerrillagirls.com. L'appello è preceduto da un'immagine dove c'è, sullo sfondo c'è un museo americano con tutti i nomi dei più grandi artisti italiani, ovviamente quasi sempre è così. Negli Stati Uniti c'è Michelangelo, vari altri, insomma, che diciamo lungo tutto il perimetro del museo sono scolpiti i nomi di questi artisti, e poi ci sono loro da lontano che arrivano, tipo Angelo Vendicatore, Angele Vendicatrici, brandendo degli stendardi con sopra i nomi di artiste donne, da Shapiro a Miriam, Frida Kahlo, eccetera. E l'appello dice questo: ci è sempre infastidito, siamo sempre state infastidite dal fatto che molti musei hanno nomi di artisti famosi incisi sulle loro facciate e nessuna donna. Così siamo arrivati ad una soluzione. Questo è il manifesto in anteprima di un'esposizione di opere recenti al Columbia College di Chicago nel marzo 2012, quindi l'esposizione dovrebbe essere appena cominciata. Ora che abbiamo fatto la versione poster, siamo pronti a farlo per davvero, mettendo striscioni temporanei con i nomi di artiste donne al posto degli uomini su alcune facciate dei musei. Se siete a conoscenza di un curatore o direttore disponibile a farci eseguire questa operazione di cambiamento di sesso sul proprio museo, vi preghiamo di farcelo sapere sul sito www.guerrillagirls.com. Quindi se qualcuna di voi ha... se qualche curatore o curatrice di museo, di mostre, è all'ascolto, può telefonare alla radio, no, può scrivere a Guerrilla Girls direttamente, e vi mettete d'accordo. E questa era sempre per la G, ma stavamo all'H. Infatti eravamo andate avanti, vabbè, sì, questa è così, si va, si torna. Già fatto, esatto, così l'8 marzo, ma perché andiamo un po'... tanto su un livello anche empatico di sensazioni, di persone che ci ricordiamo sul momento, quindi sì, funziona un po' così, un po' Macedonia, è un alfabeto un po' particolare. Vogliamo passare alla K? Alla K. Ci abbiamo Kate Winslet, che sì, ci è venuta quasi in coro di dire Kate Winslet quando siamo arrivati alla K. Un'attrice. Vuoi commentare? Io non la commento perché sennò il mio commento sarebbe molto da camionista, con tutto il rispetto per i camionisti, però trovo che sia una bellissima donna, fuori dai canoni anche estetici, anoressici, che ci propinano continuamente, ha un corpo, molto che si vede, quindi non è la solita appunto modella stra alta, stra magra, stra tutto, e poi è un'attrice secondo me anche di un certo spessore, al di là del Titanic, molti suoi film degli ultimi anni hanno dimostrato le sue qualità, quindi sicuramente, poi sì, in realtà per me passa il fatto che è molto bella e quindi mi ispira per quello, però ci vuole anche quello, io penso che la bellezza sia una delle cose. Senti, io ho trovato un audio su Kate Winslet, è tratto dal suo primo film, Kate Winslet che canta Puccini addirittura, un pezzo dalla Bohème che si chiama Sono andati, fingevo di dormire. Non so se certo, la troviamo. Ce l'ho, dico due cose. Il regista di questo film è Peter Jackson. Vabbè, chi se ne importa. Comunque il regista poi sarà del Signore degli Anelli. Questo è il primo film di Kate Winslet. Lei ha una quindicina d'anni. Mi è stato suggerito questo audio, in realtà ringrazio chi me l'ha suggerito, io questo film non lo conoscevo e non l'ho visto ancora, so un pochino la trama però, praticamente sono due adolescenti che si innamorano, la mamma di una delle due si mette in mezzo a questa relazione in maniera molto pesante e repressiva, le due la attraggono nel bosco e la fanno fuori, vabbè. comunque diciamo, questo è stato il filone dei film sul, diciamo, sugli amori lesbici che poi devono sempre finire con qualcosa di mortifero e di tragico e di tremendo. È il classicone del drama lesbico, assai conosciuto. Comunque lei è giovanissima, non c'è uno stereotipo cinematografico che andrebbe una volta analizzato per tutte. Sì, sfatato, anche sfatato, vabbè, certo. Anche se la realtà alle volte gli va molto dietro, però sì, diciamo che è un gioco di specchi che andrebbe interrotto. Io ci ho lavorato anche per la tesi su questo tema, quindi sì, ci sono molto affezionata a questa storia dello stereotipo del dramma lesbico e di tutti i film che finiscono in tragedia, delle storie d'amore tra donne, perché non è vero, cioè stiamo anche... Per fortuna. Per fortuna, esatto. C'è anche... Ci siamo, si può qui vive e vegeta a raccontarlo. Esatto. Ce l'ascoltiamo? Sì, dai. Tensione come chi sta preparando una bella sorpresa. Mia madre ci è caduta con tutte le scarpe. Il lieto evento avrà luogo domani pomeriggio. La prossima volta che scriverò su questo diario, mia madre sarà morta. Com'è strano. Eppure è piacevole. Sì, è finita, sì. È la partita Lilla Downs con una canzone bellissima che è La Bruja. Ma torniamo al nostro alfabeto. Vi ricordo che siete all'ascolto del martedì autogestito da femministe e lesbiche. Siete all'interno di Mini Pimere con lei e la Claudia che vi fanno questo particolare alfabeto. Frullato di donne che ci hanno ispirato, ci ispirano tuttora. A che lettera stiamo? Siamo alla I. Alla I avevamo... Ipazia, sarebbe stato bello leggere qualcosa, ma ahimè non abbiamo nulla sotto mano, quindi io vi propinerò la ricetta di nonna Iole che inizia secondo con me la ci I. Avete guadagnato, perché ci avete guadagnato Ipazia. Intanto perché è facile, potete fare pure così mentre la dico. E la ricetta, la vera ricetta, non la ricetta, una ricetta, la vera ricetta delle ciambelle al vino, ci vuole un minuto a farle. Allora, un bicchiere di vino, gli ingredienti, un bicchiere di vino, uno di olio e uno di zucchero, la farina quanto basta, impastate, poi e quanto basta che fate le rotelline, noi no vabbè, siamo... l'importante è che non sia appiccicoso, no ti assicuro, guarda, questo QB è veramente, perché poi come le fai, te le mangi, ti piacciono, quindi va bene. E poi si fanno i serpentelli, si arrosa, si fa la ciambellina, si ripassano nello zucchero e si mettono al forno finché non diventano marroncine. Sono buonissime. No, con questa ricetta qua non si può sbagliare. Innumerevoli donne e uomini, secondo il vostro orientamento, lanciatevi alle ciambelline al vino. Ci crediamo. Qualcuno, se le provate, fateci sapere. Fatevi vedere come sono venute. Come sono venute, se hanno funzionato. Avevamo Janice alla J, perché siamo alla J. No, Janice è stata per esempio uno dei fari della mia adolescenza, cioè, che ci ascolti, che ci fai ascoltare? Mi faccio ascoltare un pezzo tristissimo. No, vi faccio ascoltare Cosmic Blues, che vabbè, sì, lo dice la parola stessa, è un blues, e quindi è un pezzo abbastanza ricco e denso dal suo secondo disco, che era proprio I Got Jam a Cosmic Blues. Canta Janis Joplin. Conoscete, questa è Janis Joplin in un pezzo che è Cosmic Blues del suo secondo disco. Ha bisogno di pochissime presentazioni, una delle artiste più importanti dagli anni 60 in poi, che comunque ha portato le donne nella musica, nel rock. Era molto sanguigna, non so chi ha mai avuto occasione di vedere i suoi dei suoi video al live al Monterey Jazz Festival nel 67, piuttosto che poi a Woodstock. Era nata in Texas, io potrei stare qui a parlarvi fino alle 23 rotte di Janis Joplin, avendone letto tipo 4 biografie, ma non vi tedierò. Comunque sicuramente un personaggio molto importante sia nella storia della musica in generale, che nella storia della musica delle donne, che nella storia delle donne comunque, nel senso che per esempio per me è stata una grandissima compagnia nell'adolescenza, una vita molto che è finita tragicamente, ma queste cose le sapete già, sapete i famosi 27 anni e tutte queste storie qui. Ma noi che siamo a Minipimer e stiamo facendo questo alfabeto appunto di donne, personaggi, artiste che ci hanno ispirato, e visto che sono le 20:37 vorremmo riuscire a arrivare alla Z, e ci dovremmo riuscire entro le 21:10, e proseguiamo il nostro viaggio con la scusa, ho perso l'ultimo, ma non è arrivata nessun suggerimento per la X? Per la X no, perché ma le non nostre... è che deve essere una donna che inizia con la X, può no, essere una qualsiasi. Però la principessa Xena del telefilm e buttalo via, perché comunque quel telefilm... No, può andare bene, però appunto delle amazze. Ci piaceva così, un suggerimento dall'esterno, diciamo. Che anche quella è una cosa molto simpatica, perché lo mandavano in onda tranquillamente su Italia 1, e poi a un certo punto comunque... ne accorsi che insomma lei era una principessa guerriera amazzone, non per niente a un certo punto del telefilm ha una storia con la bionda, non so chi di voi ha mai visto il telefilm, comunque niente, divagazioni sul tema. Come si chiama? Xena, la principessa del deserto, credo. Xena. Sì, comunque Xena, sì. Però voi potete, la X sta intesa per una delle personaggi che vi ha ispirato a voi nella vita, vi ispira qualche artista, scultrice, pittrice, cantante, un po' come volete voi. 0649 1750, non fate le timide come al vostro solito. Dai, su, ce la potete fare. Intanto io, sempre per la J, così faccio un'altra... ricordo un'altra donna che si chiama Judy Chicago, che è molto difficile parlare di artiste, diciamo, arti visive, visuali, non so come si possono, come vogliamo chiamare, comunque per radio. Però diciamo che la cosa per cui lei è stata molto importante nella storia dell'arte, nella storia dell'arte delle donne, in particolare... è per la fondazione insieme a Miriam Shapiro, di cui vorrei parlare in maniera un po' più approfondita dopo, quando arriviamo alla show di Shapiro. E comunque diciamo, loro hanno fondato The Woman House negli anni 70 negli Stati Uniti, hanno fondato questo luogo dove era una specie di casa famiglia, dove abitavano tutte le artiste, e dove tutte le artiste che erano state invitate a partecipare a questo... Lei insegnava all'università e come insegnante ha proposto questo progetto, è stato approvato, lo hanno attuato, e ognuna delle artiste che ha partecipato a questo pezzo di vita insieme alle altre doveva portare un'idea, un'installazione, un pensiero, una poesia, qualcosa riguardante le donne e l'arte, e poi diciamo molto, molto del lavoro di queste donne femministe degli anni 70 americane era sul recupero della memoria e sulla rievocazione proprio del lavoro di artiste precedenti a loro. E a proposito di questo, Judy Chicago a me è venuta in mente per il suo, si chiama The Dinner Party, è un'installazione che ha girato il mondo, ancora continua a girare il mondo veramente, dove proprio appunto nel tentativo di rievocare tante donne che hanno fatto la storia dell'arte insieme a lei, Judy Chicago ha creato questo tavolo, una tavolata praticamente triangolare, non a caso ovviamente con la forma triangolare, dove ogni piatto, ogni postazione si può dire, perché poi ogni ipotetica commensale avrebbe davanti a sé una diversa tovaglia che si rifà che ha ispirato Judy Chicago nell'allestimento di questa tavolata, e ognuna ha un suo posto, quindi con dei suoi colori, con delle sue particolarità, e ogni piatto contiene una vagina diversa, di varie forme, floreale, più cubista, meno, non so, fotografica, eccetera, che si riferisce proprio a quella della commensale che dovrebbe essere seduta in quel posto. Non so, mi sono un po' tappinata con le parole, però spero di aver spiegato, sì, un po'. È molto più semplice. Dovete vederla, dovete andare su internet, mi dispiace, guardarla, è molto bella, sì, e in divertente. In questo momento, per chi di voi si appresta a fare un viaggio in America, ve lo auguro sentitamente, si trova al museo di Brooklyn. Ah, grazie, perfetto. Si trova al museo di Brooklyn, e sì, praticamente poi questa reinterpretazione artistica di come potrebbero essere le vagine di un sacco di altre artiste e personaggi famose. C'è Virginia Woolf, che io mi ricordi. Cioè, sì, sì, spazia molto, proprio dalla letteratura. C'è a di tutto. Tutto. Sì, un'opera molto, molto bella, molto carina. Passiamo alla L. E passiamo alla L. Che ci tocca alla L? L, una curiosità così potremmo fornire, così come chicca alle nostre ascoltatrici questa sera, su Louise May Alcott, che tutte conoscono per aver scritto Piccole donne crescono, Piccole donne fanno tutte, sa? Giovani, vecchie. In realtà lei aveva un po' una doppia vita, questa Louise May. Abbiamo ci siamo ricordate questa cosa, perché così frugando nella biblioteca casalinga avevo ritrovato Piccole donne uccidono, è un libricino di tot racconti, non mi ricordo, saranno 5-6, dove Louise May si è cimentata nel noir. E io a suo tempo, quando lo lessi, mi divertii molto, passato oltraremoto, perché l'ho letto tipo 15 anni fa, me lo rileggerò e te lo passo, perché mi ricordo che era molto divertente. E, abbiamo qualcun altro per la L, oppure possiamo passare alla M? Passiamo alla M. Passiamo alla M, che sennò non ci arriviamo alla Z. Oddio. Vabbè, allora, continuiamo con le artiste. È sempre un po' difficile, appunto, parlarne, però io volevo sottoporvi l'opera di Ana Mendieta, che è una cubana, è una delle prime artiste latinoamericane ad avere un ruolo significativo a New York, sempre negli anni 70 parliamo. E lei era nata nel 48 e nel 61, quindi piccolissima, lei e la sorella vengono sradicate e portate negli Stati Uniti all'interno della famosa operazione Peter Pan, che era il piano anticomunista americano per salvare i bambini cubani all'indomani della rivoluzione castrista. E queste due parole così per dire un po' diciamo l'ambito culturale in cui lei cresce, e perché in realtà lei inizia così un vero e proprio pellegrinaggio da un campo di rifugiati a un orfanotrofio o famiglie adottive, insomma va sull'onda di questa operazione che voleva essere salvifica. In realtà arriva negli Stati Uniti ed è e rimane una cittadina di serie B, C, D, Z. E tornerà a Cuba nel 1980, 18 anni dopo il suo esilio, e ad oggi è l'unica cubana espatriata negli Stati Uniti ad aver partecipato a mostre nazionali a Cuba. E passa dal lavoro pittorico alla performance nella metà degli anni 60, e crea queste performance abbastanza scioccanti in cui fa partecipare praticamente gli spettatori, a loro insaputa sono partecipi della performance e vengono anche fotografati e anche ripresi. Quindi le loro reazioni a quello che vedono rientrano nella performance, poi vengono presentate come parte della performance. Lei si fa trovare, poi invita amici, professori, parenti vari a casa sua e si fa trovare riversa, nella completa oscurità, un'unica lampada che la illumina, e lei di schiena riversa su un tavolo con diciamo segni evidenti di violenza, di stupro, e si chiama proprio questa performance Scena di uno stupro in un appartamento, e appunto il tutto viene ripreso, corpo ovviamente legato, insanguinato, ricurvo, questi invitati si trovano in questa situazione, ma ovviamente la reazione di turbamento, tutto questo viene ripreso e anche i commenti vengono ripresi. Sicuramente su questo penso che c'è, passatemi lo spottino, abbiamo fatto l'anno scorso, credo, una trasmissione sulla mostra che ci fu a Roma, alla NIAM, appunto dell'arte femminista, sì, eccetera. Lei è, credo, lei, se non ricordo male, sì, c'era lei anche è. Lei. E, no, però sicuramente una cosa che hanno scardinato tanto le artiste, adesso mi viene in mente anche Francesca Woodman, comunque, ma anche se partissimo dall'inizio del secolo, anche Claude Cahun, di cui parlavamo la scorsa volta quando abbiamo iniziato a fare questa trasmissione, sicuramente sulla riappropriazione della rappresentazione del proprio corpo, o comunque appunto anche la rappresentazione delle violenze sul proprio corpo, è uno dei grandissimi lavori che hanno fatto tutte queste artiste che poi sì, diciamo che hanno il grosso del loro momento negli anni 70, ma sicuramente tra l'altro poi di un'attualità sconvolgente, perché vedere una performance del genere oggi credo che abbia lo stesso impatto che potesse avere 30-40 anni fa. Purtroppo sì, esatto, perché sì, le condizioni generali non sono migliorate, anzi semmai a tratti in alcuni paesi, compreso il nostro, sono pure peggiorate, quindi figuriamoci. Però cioè, stiamo facendo questa trasmissione e poi buffamente ci sta capitando tanto di parlare di arte visiva e di performance, cosa che chiaramente in radio risulta molto difficile, però penso anche alle fotografie di Tina Modotti quando parliamo, quando stiamo... Brava, siamo giusto alla M, siamo vedi? Siamo giusto alla M, vedi, avuto... E è chiaro che parlare in radio di opere visive è molto più difficile, però è anche vero che c'è tutto, che molto spesso questo pezzo di storia delle donne che hanno fatto e fanno comunque rappresentazione e cambiano anche i canoni estetici della rappresentazione e cambiano anche i canoni estetici dell'arte di per sé, molto spesso è sempre misconosciuto se non considerato, quindi... È un po' casuale che ci siano tante artiste, un po' no, perché è una cosa di cui appunto poi non capita di parlare spesso, di quali sono le persone che comunque hanno ispirato anche modi di vedere diversamente. Penso anche a qualche altra lettera, ma me la gioco quando arriviamo alla se no me le gioco tutte. E bene, noi ci ascoltiamo per intero il pezzo che prima andava di sottofondo di Lila Down, perché è veramente molto bello anche se dura pochissimissimo, e poi ci ascoltiamo invece un classicone che mette insieme due icone nostrane della musica rock, considerando che si contano sulle dita delle mani a prescindere dai gusti personali. E una è Carmen Consoli e l'altra è Gianna Nannini con America, ma prima Lila Downs con La Bruja. Ay, qué bonito es volar, y a las dos de la mañana, y a las dos de la mañana, y ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de tu hermana. Brazos de tu hermana, y hasta quisiera llorar. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da de comer. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me siente en sus piernas, me da de besito. Y ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna no ve, y en con pretensiones le chupa de usted. Y ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo. Y ahora sí, maldita bruja, y ahora le vas a chupar, y a tu marido el ombligo, y a tu marido el ombligo. chupar. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besito. Ay, che mi è venuto in mente mentre sentivamo questa canzone, perché questa canzone sta nella colonna sonora del film di Frida Kahlo. E alla K ci dimenticammo. Grande personaggio, cioè forse anche troppo grande. Comunque Frida Kahlo, giusto per dire che ci siamo ricordati. Noi la pensiamo. E anche noi l'abbiamo fatto una l'anno scorso. Questo era un medley tra America e Venere, due successi di queste due, diciamo, regine del rock nostrano. Una era Carmen Consoli, l'altra era appunto Gianna Nannini. Nessuna delle due, credo, a questi microfoni ha bisogno di presentazioni. L'una catanese, 74, il suo anno di nascita, all'attivo ormai non so quanti album, fa album dal 96, credo siano circa 10 o 12, ho perso il conto pure io, di cui Elettra, l'ultimo, molto molto bello, devo dire. Negli anni la sua scrittura si è molto raffinata e continua a mantenere una certa bellezza, riesce a scrivere delle cose non banali, parlando di sentimenti molto semplici in realtà. E la Nannini, vabbè, che ve lo dico a fa, tanto voi siete fan sfegatate, quindi manco ve la racconto. Comunque classe 56, credo, 54, una cosa del genere. No, invece io vado alla O. Brava, passo alla O, che sono le 20 e invece 54. classe 1925, ecco. 26 aprile, ci siamo quasi pure con la data, sarebbe stato il suo compleanno dopo più uno, un giorno, di Ondina Peteani, che diciamo è per la storia, diciamo la storiografia, è stata la prima staffetta a servire i partigiani, i combattenti della lotta di liberazione. Lei era un'operaia e appunto partigiana italiana, era operaia nei cantieri navali di Monfalcone, e entra diciottenne nel movimento di liberazione e vabbè, a me mi sta simpatica, mi piace molto, perché è stata arrestata pare 3-4 volte ed è riuscita a scappare altrettante volte. La sua storia, la storia di Ondina Peteani, la trovate un po' su internet, un po' ci sono anche dei libri, mi pare uno si chiama La Brigata Proletaria Non Si Arrende, che era la brigata di cui faceva parte, e così è scappata pure da Ravensbrück, che era il campo delle detenute politiche, ed è tornata a casa, quella mi pare del 45, poi è riuscita a tornare a casa. Ondina Peteani, poi? Vai. Chi abbiamo? Chi abbiamo? Vai, vai, cambiamo. Vogliamo ascoltare un pezzo di Petra Magoni? Che la sua voce a me mi piace tanto, perché mi sembra, lei è tutta così un po' esilina, lunghina, un po' così, e poi tira fuori sta voce potente. Io suggerivo Guarda che luna, però penso qualsiasi può... Adesso nel mentre che la cerchiamo, nel mentre io, esatto, io faccio un vado avanti e torno indietro, perché poi alla M avevamo anche sparato così Marilyn Monroe, Martina Navratilova, è vero, Nina Marilyn Simone Monroe. Avevamo proprio poi Antonia Pozzi, volevamo leggere una qualcosa di Antonia Pozzi, sì, che compie il centenario, no? Il centenario, una poetessa dell'inizio del Novecento italiana che credo conosca pochissima gente. Poi alla Q, subito dopo la P, avevamo Mary Quant, che è stata la inventrice della minigonna, non lo so se è un merito, ma insomma comunque lei era di una famiglia abbastanza agiata di Londra, e a un certo punto scappa di casa, non gli piace come vive, ma si comincia a travestire, va in giro un po' travestita da uomo, un po' così, e inventa uno stile, finché trova questa Twiggy, famosissima, poi diventata modella, una ragazzina che aveva 16 anni, gli ha tagliato la gonna e è diventata famosa, basta. Mary Quant, questa era la unica Q che ci è venuta in mente, no vabbè, questa è una delle Q che c'erano venute in mente, così una nota mettere. Così di... Al di là poi di tutte le costruzioni stereotipate sulla minigonna, È comoda comunque la minigonna. Io non la metto da tempo in mano. Io nemmeno, però d'estate stai fresca, diciamo. Petra Magoni. Eccola. Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei sentirti dire: guarda che luna, guarda che mare. Per chiarire il concetto, mi distinsi poi, non prima, mentre voi vi facevate la toilette nel dormitorio più colto dei vostri sogni, perché sognate che straripi il fiume di questa nostra, è mia, vita che non ha quei bordi giganteschi che sognavate prima d'estinguere l'arte pittorica della mia gioventù, così attenta a seguirvi che vi perse di vista, non superandovi, ma non adorandovi più, come voi dei della mia immaginazione, fantasia che ora non è più realtà, ma aveste messa da parte per un vostro fabbisogno, che io non compresi più, osservandovi digiunare platealmente, spargendo un falso odore di rettitudine magnifica la sorte progressiva che io ebbi dai vostri occhi dipinti di blu. Rosselli, Amelia, con La Libellula abbiamo trovato questa lettura e così ve l'abbiamo proposta. Poi che abbiamo? Abbiamo, volendo, Ricky Lee Jones, sempre per la R. Sì, ma poi ce la mettiamo. Poi ce lo mettiamo e possiamo, non so, io posso andare avanti con la Sh di cui sh. Sopra. Eh sì, perché sono le 21.01. Ecco, siamo già fuori. Allora, la Sh c'era Miriam Shapiro che, come vi avevo detto, insieme a Judy Chicago fondò questa Woman House. E lei è entrata nel mondo dell'arte nel 1950, il momento in cui l'arte dominante americana era estremamente astratta, diciamo, e in gran parte prodotta dagli uomini. Quindi, strano. Ha fatto lei della posizione della donna come artista nel XX secolo e anche della posizione della donna in quanto donna, non solo come artista, nel XX secolo, le idee centrali del suo lavoro. Come ha fatto questo? L'ha fatto attraverso il suo uso di immagini che suggeriscono attività femminili e mestieri femminili, diciamo considerate femminili. E quindi diciamo attraverso la creazione di opere d'arte che sono estremamente elaborate e decorative, che sono qualità che spesso venivano condannate nell'arte, ma che vengono tuttora, ma che sono invece presenti a molti mestieri, molti per esempio dei mestieri tessili associati ai lavori da donne come il ricamo, il decoupage e tutte queste cose qua. La parola che Miriam Shapiro ha inventato per descrivere il suo mezzo di espressivo era femmage, che era utilizzata per indicare composizioni di pittura, tessuto e altri materiali con un tema, un significato che riguardava le donne, con un riferimento intenzionale alla sfera femminile, culturale e della vita della maggior parte delle donne di quel periodo. Quindi, che ne so, pezzi di coperte, foto ritagliate di case, pezzi di abbigliamento, merletti, riviste, eccetera, eccetera. Eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, perché veramente sono dei patch, sono dei pure questi mini beam, dei frullatoni come la nostra trasmissione. E lei in questo modo, qui realizza quelle che chiama le sue collaborations, cioè sono fatte di collaborazione le sue opere. In che senso? Lei collabora con il lavoro di artiste che lei vuole inserire in una genealogia artistica di se stessa. E queste opere le permettono di rendere omaggio ad artiste la cui eredità lei vuole conservare. E in realtà lei, le artiste che sceglie, non sono più in vita, cioè la sua collaborazione non è una collaborazione fatta di una conversazione o di una reale collaborazione artistica, ma lei usa la parola come descrizione metaforica, diciamo, dell'uso che lei fa dei lavori di queste artiste che l'hanno preceduta e che l'aiutano e che l'hanno aiutata nella sua propria ricerca artistica personale. Perché secondo me qui c'entra sempre tantissimo il fatto di tirare fuori questa storia. La memoria, La memoria, infatti, perché comunque tantissime delle donne che hanno fatto la storia delle arti sono sempre appunto molto misconosciute, quindi è molto forte comunque poi il voler tirar fuori sempre le proprie radici, la propria storia, la propria memoria e creare la continuità nel tempo, perché è una delle cose che fondamentalmente negano sempre. È un po' come mi viene da pensare la stessa cosa per la storia delle lesbiche o quant'altro. Certo. Cioè proprio, infatti è proprio un'azione politica. È un'identità, no? Che viene in qualche modo, come dire, sotto come si può dire? Taciuta. Sottaciuta, e che invece viene riportata su da questo collegamento che si può fare con la storia di una donna che ha vissuto prima di noi, in questo caso prima di Miriam Shapiro, perché poi tutte le cose che lei, diciamo, nella collaboration, la donna della riproduzione è di solito impegnata in qualche attività domestica, oppure o qualche spazio domestico, ed è circondata da fotografie di luoghi e cose connesse con la vita di Miriam Shapiro. E quindi sono proprio delle composizioni in cui lei crea uno spazio bidimensionale al centro, con la riproduzione dell'opera che lei fa. Lei fa la riproduzione dell'opera dell'artista, non mette una foto dell'opera o un'altra. Lei fa una riproduzione fedele e intorno appiccica, incolla pezzetti di cose che la riguardano, e proprio a creare questo collegamento. Un collage di, e in questo senso collabora con moltissime artiste, collabora con Frida Kahlo, Mary Cassatt, tra tante artiste russe, in particolare la Anna Exter, che è stata particolarmente significativa per tutto il lavoro sulla danza e sul movimento che ha fatto Miriam Shapiro. Ci siamo scordati Pina Bausch. Vedi, danza. Alla B. Mi sa che l'abbiamo citata però l'8, mi pare. Facciamo finta che l'abbiamo citata, ma comunque certo, e ovviamente tutto questo alfabeto è molto molto parziale, molto anche appunto a istanti, ad attimi. Su questa storia del collage mi viene in mente sempre Alessia Cindy Sherman, che è una fotografa e che ha passato moltissimi anni del suo lavoro artistico a fare un collage. Fotografa, diresti te, eh? Sì, non per, so. Performer. Pure questa performance in realtà è abbastanza riduttiva. Diciamo per che definire comunque una... molto del suo lavoro passa per immagini fotografiche, sì, dove lei performa delle identità stereotipate di donne. Quindi sì, diciamo che è talmente un mix che potremmo, sì, perché poi è una più definizioni. Sì, perché è una fotografia molto ragionata in realtà, non c'è niente di estemporaneo, non no, è una fotografia, non è un reportage, per dire, una fotografia di quel tipo. Sono tutte foto costruite. Sono proprio scenografie costruite, personaggi costruiti, eccetera. E PQRS? Sì, Gerda Taro, altra fotografa. Altra fotografa. Come possiamo fare qua? Gerda Taro è una fotografa importantissima, ha fotografato la rivoluzione spagnola, la guerra civile, scusate, spagnola, insieme al compagno Robert Capa. Lui ovviamente stranoto ai più e anche ai meno, lei un po' meno nota ai più e ai meno. E mi è capitato di vedere in Spagna una mostra dove c'erano entrambe, che dite che sono de parte, ma le sue foto secondo me sono più intense e più forti di quelle di Robert Capa, nulla togliendo a Robert Capa, che è stato un grandissimo fotografo, ma sicuramente la foto della miliziana inginocchiata con la pistola in mano, quadrata, fatta da Gerda Taro, resta negli occhi. E... quello è bellissimo, sì. Posso dire una cosa che sì, c'entra, certo. No, perché adesso parlavi, mi è venuto in mente un libro che ho finito di leggere da poco, che si chiama Dove nessuno ti troverà, dove si parla, è una via di mezzo tra romanzo storico e finzione, perché è la storia della Pastora, che è stata un personaggio della guerra civile spagnola, il cui sesso è sempre stato ambiguo. Perché poi lui alla fine decide di essere uomo, però quando nasce le impongono di essere una donna, perché appunto, diciamo, proprio fisiologicamente non si riusciva a definire, sì, però diciamo probabilmente, certo, poi pecorara, per cui lasciata così come viene, donna. Ed è stato un personaggio molto molto importante nella resistenza, appunto nella guerra civile spagnola, e il libro è di Alicia Jiménez. Ce la siamo persa. E mentre Bartlett, che poteva essere alla G e alla B. Ecco, quindi noi, no, ovviamente, come avete notato, noi questo alfabeto siamo leggetelo, nome e cognome a caso, sono le 21:10, siamo alla T, ci mancano... La U. Alla U c'era Ute Lemper, avevo io proposto, possiamo pure bypassare Ute Lemper, così. Però la W No, la possiamo. W non possiamo perché c'è di tutto e di più. Solo non con le scrittrici saltarla. Non finiamo più. A parte che c'è Jeanette Winterson, che non si può non citare, una delle scrittrici lesbiche che sicuramente, tra l'altro, molto conosciuta dalle generazioni anche giovani, ha scritto svariati romanzi, tra l'altro l'ultimo è appena uscito, e poi scrisse quel fenomenale che a me, uno di quegli altri libri che comunque fu fondamentale nella mia adolescenza, scritto sul corpo, dove non c'era un femminile ed un maschile, restava tutto, anche se poi notoriamente erano appunto... Ci si poteva quantomeno immaginare quello che si voleva, e questo già da una notevole libertà nella mente, che inizia con quella frase: perché è la perdita la misura dell'amore, non piove da 3 mesi, eccetera, eccetera, eccetera. Un inizio sicuramente folgorante. E è appena uscito il suo ultimo libro, che dicono voci di corridoio sia molto, molto, molto bello. Ma non c'è solo lei, perché c'è un'altra scrittrice, anch'essa lesbica, che è Sarah Waters, che ha scritto da Carezze di velluto a Turno di notte, Ladra, Affinità e quant'altro. Io, uno dei miei preferiti è per esempio Turno di notte. Qua adesso non ce l'ho con me, quindi... Non vi possiamo. C'eravamo ripromesse di fare una lettura. Ma siamo due pigre, nonché due fricchettone. No, più che altro non c'è tanto tempo. Non c'è tanto tempo, sono le 21:11, cioè il CLR con una che calamità incombe. che incombe. Vabbè, diciamole così, spariamole così. C'era Neil Yalt, che è una Virginia Woolf. Vabbè, se per questo c'era pure Wonder Woman, avevo pregato. Non so se la possiamo mandare come sigla finale dopo che ci spariamo la Z pure così, sì. Zap Mama, Zadie Smith, avevamo così un'altra scrittrice. La X è rimasta incognita. La Io X non so è rimasta incognita, ma L'abbiamo detta già, vabbè, allora vada per Xena, ma non doveva essere per forza con la X, comunque va bene. Va bene, sono le 21:12, grazie di essere state all'ascolto di questo minifimer, un po' veramente a minifimer frullatore, era l'alfabeta, le donne, le artiste, le poetesse, le femministe, le lesbiche che ci ispirano e ci hanno ispirato, era un alfabeta tutta per noi. Al microfono e a fare con me questa trasmissione c'era Leila, che salutiamo. Ciao, io grazie. Sono Claudia. Ci mettiamo la canzone di Nina Simone e poi appunto il tema di Wonder Woman. Buon proseguimento con il martedì. Ciao, buona serata. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. dem dem dem dem dem.